L'uccello della verità. C'era una volta un pescatore che, come al solito, gettò la sua rete nel fiume. Aspettò pazientemente nella sua barca all'ora di pranzo, quando sentì un suono curioso. Mentre aspettava vicino al fiume, vide una culla di cristallo che fluttuava lungo il fiume, fino alla sua barca. Il pescatore allungò la mano e afferrò il piccolo pacchetto, all'interno del quale c'erano le coperte della seta più pregiata che avesse mai visto. Le tolse e vide i volti di due bellissimi bambini. Il cuore del pescatore si riempì di tenerezza e portò i bambini a casa. Moglie, guarda chi ho trovato nel fiume oggi. Due bambini? Abbiamo già quattro figli da sfamare. Quindi cosa avrei dovuto fare? Lasciarli affogare nel fiume o farli morire di fame? Lo so. Beh, se abbiamo abbastanza cibo per sei, ne avremo abbastanza per otto. Il cibo era sempre abbondante nella casa del pescatore e presto i due bambini crebbero fino a diventare un bellissimo ragazzo e una bellissima ragazza, gentili quanto saggi ed educati quanto giusti. Ma gli altri bambini non erano gentili con loro e spesso dicevano loro cose cattive. Ridammi la mia bambola! Papà l'ha portata per me! Aveva detto che potevamo giocarci tutti. Ma non è tuo padre, vero? Ti ha trovata in un fiume. Vai a giocare con la tua culla di cristallo. Questa è l'unica cosa che ti appartiene. Il fratello e la sorella a volte diventavano così stanchi che si allontanavano nel bosco per stare da soli. Lì prendevano il pane che avevano tenuto dalle loro colazioni e lo sbriciolavano per gli uccelli, che insegnavano loro molte cose in cambio, come la lingua degli uccelli, i modi di vivere in una foresta e a cantare. E una notte, dopo che gli altri bambini erano stati particolarmente cattivi con loro, il fratello e la sorella orfani decisero. Non importa quanto ci proviamo, semplicemente non gli piacciamo. E questo mette papà e mamma in difficoltà. Non pensi che sia meglio se ce ne andiamo? Domani mamma e papà andranno in città. Partiremo dopo che se ne saranno andati. Così, quel giorno, quando il pescatore e sua moglie partirono per la città, il fratello e la sorella lasciarono la casa e andarono nella foresta. Camminarono per 3 giorni e quando fu notte, furono molto stanchi. All'improvviso, videro una capanna in lontananza. Guarda là! Pensi che dovremmo andare a vedere? Potremmo trovare un riparo lì. Andarono alla capanna e bussarono, ma non c'era nessuno in giro. Ora cosa facciamo? Bene, guarda, c'è una panchina qui. Almeno possiamo riposare per la notte. Quindi si sedettero sulla panchina per riposare, ma nessuno dei due riuscì a dormire. Mentre giacevano svegli, guardando la luna e le stelle, improvvisamente sentirono dei suoni. C'era un enorme chiacchiericcio tra gli alberi vicini e poiché conoscevano la lingua degli uccelli, riuscirono a capire cosa gli uccelli stessero facendo. Sei venuto qui dalla città? Oh cielo! Hai mai pensato ai tuoi poveri amici della foresta? Beh, solo un cambio d'aria. Ultimamente ho avuto freddo. Anche gli uccelli sentono freddo? Shh! Ascolta! Allora, quali sono le ultime notizie dalla grande città? Ah, al solito. Il povero re è ancora disperato. Nulla sembra mai dargli conforto e pace. Deve essere stato difficile per lui, con la perdita della regina e dei bambini. Oh no, lei non è andata. È stata rinchiusa nella torre. Cosa vuoi dire? Beh, non l'ho vista io stessa. Ma conosco un vecchio cuculo che vive nel giardino del palazzo. Vai avanti, dici cosa hai sentito. Sai che il re ha sposato una bellissima donna di cui si era innamorato? Certo che lo so. Vedi, la fanciulla era tanto saggia quanto bella e il re l'amava profondamente. Lei scoprì che alcuni funzionari e ministri del palazzo stavano rubando al re e cercò di denunciarli. Veramente? Sì, ma quei funzionari corrotti si resero conto di questo e quando il re dovette andare in guerra, arrestarono la regina e la rinchiusero in una torre. E il principe e la principessa? Presero i gemelli, li misero in una culla di cristallo e poi li portarono al fiume. Il cuculo dice di aver visto tutto lui stesso. Nel momento in cui il fratello e la sorella sentirono parlare della culla di cristallo, pensarono alla culla in cui erano stati sistemati per galleggiare sul fiume e il pescatore li aveva portati a casa. Vai a giocare con la tua culla di cristallo! È l'unica cosa che ti appartiene! Il re non ha cercato di trovarli? A quanto pare, i funzionari corrotti gli dissero che, temendo la guerra, la regina era fuggita con i due bambini. Il re non sa nemmeno che sua moglie è rinchiusa in una torre. E se il vero principe e la principessa andassero a palazzo, il re li riconoscerebbe? Parli la nostra lingua? Sì, la conosciamo. Alcuni uccelli come te sono stati così gentili da insegnarcela. Ah, la culla di cristallo di cui parlavi. Bene, qualcuno ci mise nella culla sul fiume, dove un pescatore ci trovò e ci portò a casa. Questo significa che siete il principe e la principessa? Beh, guarda le loro maniere regali. Certo che lo sono. Ma chi ci crederà? Come dimostreranno chi sono per il re? C'è un uccello, l'uccello della verità. L'unico uccello in tutto il mondo che sa parlare la lingua degli uomini. L'uccello è a conoscenza di ogni verità del mondo. Solo lui può aiutarvi. Dove possiamo trovarlo? C'è una strega che vive in una grotta nella montagna viola. Vi dirà la strada per il castello Vieni e non te ne andar, dove l'uccello è tenuto prigioniero. Ma prima di entrare nel castello, parlate al gufo che può pronunciare solo una parola degli uomini. Attraversa. Grazie mille. Faremo tutto il necessario per tornare dal nostro padre. Quindi il principe e la principessa entrarono nella foresta. Erano così felici e così ansiosi di incontrare il padre e finalmente liberare la madre che si dimenticarono completamente della fame e della stanchezza e proseguirono. Alla fine arrivarono alla grotta nella montagna viola dove viveva la strega. Bussarono coraggiosamente alla porta. Chi osa venire qui a quest'ora innaturale? Cielo, cielo! Cosa state facendo qui? Dobbiamo cercare la strada per il castello di Vieni e non te ne andare. Ah, quello? Potete andarci domani mattina. Fino ad allora perché non dormite con le mie lucertole? Grazie signora, ma vogliamo davvero metterci in cammino? Vi mostrerò la via solo se mi porterete l'acqua della fontana dai mille colori che si trova nella corte del castello. Sicuramente, signora. Quindi, la strega diede loro un barattolo in cui mettere l'acqua della fontana dai tanti colori e mandò il suo cane per accompagnarli al castello. Dov'è quel gufo? Gli uccelli ci avevano chiesto di parlargli prima di entrare nel castello. Proprio allora sentirono un suono. Attraverso, attraverso. Il gufo. Buon gufo, dobbiamo entrare nel castello di Vieni e non te ne andar. C'è stato chiesto di parlarti prima di entrare. La strega vi ha mostrato la strada? Sì. E vi ha chiesto di portarle l'acqua dalla fontana dei tanti colori? Sì. Non fatelo. Riempite il barattolo della strega invece con l'acqua della sorgente che scorre accanto alla fontana dei tanti colori. Dopodiché entrate. Troverete una voliera con tutti i tipi di uccelli, ognuno dei quali vi urlerà di essere l'uccello della verità. Ma il vero uccello della verità sarà nell'angolo, una colomba d'argento. Fate tutto questo in fretta, perché un gigante viene qui ogni sera per ordine dello strego. Grazie, bravo gufo. Quindi i bambini fecero esattamente come aveva detto il gufo. Riempirono il barattolo della strega con l'acqua della sorgente. Andarono nella voliera dove gli uccelli gridarono. Sono io il vero uccello della verità. Bugiardo, sono io il vero uccello della verità. No, sono io. No, sono io. I bambini individuarono il vero uccello della verità, lo sollevarono delicatamente e scapparono dal castello. Raggiunsero la grotta della strega. Quindi avete trovato il vero uccello della verità? Dov'è l'acqua della fontana dai tanti colori? Trasformatevi ora in lucertole! Ma invece di diventare lucertole, il principe e la principessa iniziarono a brillare e divennero forti, perché l'acqua della sorgente faceva sempre bene. Vedendo questo, tutte le creature nella caverna si arrampicarono per avere l'acqua e la strega scappò via e non fu mai più vista. I bambini andarono a palazzo, ma i malvagi ministri non li fecero entrare. Non potremo mai mostrare loro l'uccello della verità, altrimenti non ci faranno mai entrare. Diremo loro che vogliamo vedere il re. Cosa state facendo voi due bambini qui? Vogliamo incontrare il re. Abbiamo un piccolo regalo per lui. Come osate disturbare il nostro re? Andate via, forza! Ma l'uccello della verità volò fuori dalla borsa, dritto nella camera del re attraverso la finestra e disse al re tutto quanto. Quindi la tua buona regina è chiusa in quella torre e il tuo principe e la tua principessa ti aspettano fuori dal palazzo. Il re si precipitò fuori e abbracciò i suoi figli. I malvagi ministri furono arrestati e la buona regina fu liberata dalla torre. Il re ricompensò profumatamente il pescatore e sua moglie per la loro gentilezza. E da allora in poi, il principe e la principessa vissero felici e contenti con i loro genitori.